Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suarda e Franco Piantanide in redazione, Fabio Cantadore un po' mesto da milanista qual è in regia. Il senso del mercoledì di campionato è che il Milan la sua occasione se l'è fumata definitivamente, a mio parere, non tanto per i 4 punti di scarto quanto per la sensazione di usura che il Milan trasmette, infortuni e cartellini pesantissimi quelli di ieri a Ronaldinho, che era diffidato, a Pirlo, espulsione diretta e non è cosa da Andrea Pirlo. Cartellini che sono figli anche della stanchezza di una squadra molto in là con gli anni. Se il Milan la sua occasione dà l'impressione di averla persa al di là di questi 4 punti, la Roma, che pure è staccata degli stessi 4 punti dall'Inter, la sua occasione invece se l'è costruita e adesso è pronta a viverla anche in buone condizioni, secondo me, perché questo ha detto la partita di ieri sera a Bologna. La squadra si è ripresa sempre a sensazioni dopo 3-4 partite sottotono, al di là dei risultati che sono stati comunque sempre positivi. Non fosse stato per quel 3-3 di Livorno, la Roma si sarebbe giocata questa occasione con l'Inter anche in ben altre condizioni di classifica e con altre prospettive. L'Inter ha ripreso a marciare con un Livorno che era un ostacolo troppo basso per essere significativo, soprattutto il Livorno di questi tempi, avvio di partita equilibrato, poi il Livorno a Pulzetti che spara sul portiere, l'Inter a Eto'o che segna 2 gol da cinema e giocando al centro dell'attacco, ruolo che quando c'è Milito il camerunense gli concede, insomma è tornato a far male come avete visto. Direi, prima di cominciare a ricevere ospiti e ascoltatori, naturalmente 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Tra l'altro stamattina ha parlato anche Francesco Totti, vedrò poi di farlo sentire al volo non appena passerà su Sky, è un'occasione istituzionale, un convegno all'Università Cattolica del Policlinico Gemelli. Ebbene, l'impressione è che Roma-Inter sia già cominciata, perché Totti prima ha detto, gli hanno chiesto, ma sarai disponibile per la partita con l'Inter? No, non credo. Poi, no, scherzavo, sono a disposizione del mister, ha detto Totti, che con ogni probabilità rientrerà per l'appunto e con ogni probabilità, almeno secondo me, andrà in panchina. Intanto Ranieri, sempre in questa occasione, ha detto Francesco per noi è una cellula staminale. Dunque, nel contesto dell'incontro, Ranieri così si è espresso. Io voglio farvi sentire però, partendo dalle voci di ieri sera, Leonardo dopo la sconfitta di Parma. Abbiamo avuto una giornata non felicissima, non abbiamo giocato bene, specialmente il primo tempo. Credo che abbiamo subito un po' questo pressing, diciamo, del Parma, una grande intensità l'ho messo a centrocampo con ripartenze importanti, giocatori davanti che hanno fatto bene, è vero, dopo pochi secondi abbiamo subito già una traversa. Però credo che la squadra è stata brava anche a rientrare un po' in partita, ha fatto un buon secondo tempo, abbiamo preso un gol alla fine. Il primo tempo potevamo andare in svantaggio, il secondo potevamo fare qualcosina di più in avanti e trovare un gol. Io credo che il pareggio forse ci stava e alla fine siamo stati penalizzati con questo gol all'ultimo minuto. Credo che abbiamo giocato, diciamo, con tanti giocatori in avanti, come sapevamo giocare in altre partite, abbiamo giocato, diciamo, con giocatori che davano anche profondità, che era un altro tipo di gioco. Oggi abbiamo cercato, diciamo, palla a piedi con un giocatore di qualità, cercare di avere un possesso a metà campo avversario e arrivare in un modo, diciamo, non solito. Non siamo riusciti, non eravamo una grande giornata, dopo abbiamo cambiato un po' di giocatori, siamo andati più presenti in aria, siamo arrivati un po' con i cross, un po' con i lanci, siamo riusciti a creare qualche occasione, non con tanta lucidità, ma è vero che oggi non è stata una prestazione, diciamo, positiva. Ma il Milan è sgonfio, al di là dei giri di parole di Leonardo, le distinzioni tra un primo tempo in cui il Milan è partito è partito molto molle e una ripresa in cui si è visto qualcosina in più, ma anche tanta confusione anche tattica con Seedorf nel ruolo di esterno destro, comunque di giocatore offensivo in posizione destra, insomma in quel buco, quella voragine lasciata da Pato, che al quale il Milan non può chiaramente rinunciare, essendo Pato, secondo me, ma non so se ci possa essere grande contraddittorio su questo punto, essendo Pato il giocatore più forte del Milan, Ronaldinho compreso. Sentiamo anche, rimanendo a Parma, prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori, la dedica di Božinov al gol. Avrete letto, magari l'avete già sentita ieri sera, di nuovo Božinov. Lo dedico al mister perché giustamente lui ci ha chiesto il gol, ci ha chiesto una vittoria e giustamente io che posso parlare della squadra, lo dichiamo a lui questa vittoria e questo mio gol. Io ti dico, simpatizzo a Mourinho, simpatizzo anche all'Inter, mi piace come allenatore, è un allenatore che in Italia è molto criticato, però mi piace la sua personalità, mi piace come propone la squadra, come gioca. Abbiamo visto Stamford Bridge con Chelsea, ha giocato con 4 punte, però queste 4 punte, come dice mister, si devono sacrificare, devono correre, no mister, come lei ci fa vedere i filmati, immagini, no? È giusto così, se vuoi ottenere risultati tutta la squadra si deve sacrificare. Insomma, segnano per lui, per Mourinho, anche sugli altri campi, anche giocatori che non sono esattamente suoi, come Valery Bojinov. Davide, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Genta. Volevo fare una considerazione alla luce di quello che abbiamo visto anche ieri sera, sulla situazione arbitrale, diciamo. Ieri sera il campionato ha fatto vedere che gli errori ci sono in tutti i campi, una volta toccano uno, una volta toccano l'altro. A me pare che l'unica vera grossa anomalia di questo campionato sia il signor Rosetti, considerato da tutti come il più grande allenatore italiano, che in un periodo molto ristretto di partite ha commesso una serie di errori incredibili per uno delle sue capacità, tutte a sfavore di una squadra e tutte a favore dell'altra. Cosa che è stata notata, credo, anche dalla sezione arbitrale dell'AIA, perché se sono 5 domeniche che non viene designato per una partita di Serie A, probabilmente la cosa ha suscitato qualche perplessità anche nel settore arbitrale. E credo che questo abbia contribuito un pochino a spostare il peso del campionato un pochino di più a favore del Milan e a rimetterlo in gioco quando, visto anche quello che hanno fatto ieri sera, queste grosse potenzialità per rientrare in gioco non ce le avevano. Ora la mia preoccupazione da interista è che non lo ritirino fuori per la partita più importante dell'anno, cioè quella di domenica sera, perché non vorrei ritrovarmi questa mina vagante proprio domenica sera. No, ma guardi Davide, secondo me, guardi, posso dirle la verità? Quanto le sottolinea ha un senso, nel senso che Rosetti sta vivendo una pessima stagione, secondo me, ma non solo per gli ultimi episodi, raramente è stato all'altezza del suo talento in questa stagione. Se fossi in lei, eviterei in questo momento di guardare gli arbitri. Già l'uscita di Oriali sabato sera, dopo la partita dell'Inter, era stata un po' infelice, comunque non necessaria, non obbligatoria. Non guarderei agli arbitri, guarderei a un Inter che è la squadra più forte di questo campionato, che è abituata a giocare grandi partite, che va a Roma come capolista con 4 punti di vantaggio e come squadra da battere. Quindi semplicemente questo, non starei tanto a farmi delle preoccupazioni o delle menate su Rosetti o su chi dirigerà quella partita. Il Milan ne ha prese diverse in questa stagione, ieri sera gliene hanno anche date, perché lo stesso Morganti, che è quello che non aveva concesso il gol al Chievo, qualcuno se ne ricorderà, un paio di settimane fa, ieri sera in eccesso di zelo ha buttato fuori Pirlo, che è intervenuto in maniera molto scomposta, ma da rosso diretto magari anche no. Traffico appuntamento 14.45, naturalmente oggi è il giorno della rabbia, credo, per i tifosi del Milan, lo capisco da un messaggio, quello di Stefania, per mesi ho assistito nella vostra trasmissione al massacro di Ronaldinho, secondo me ingiusto, ora perché invece non si dice niente di Pirlo, che è solo dannoso per questa squadra, ieri ne si fa pure espellere, trotta per il campo senza far nulla, da almeno un paio d'anni non batte un angolo, una punizione decente da altrettanto, e pensare che lo voleva al Chelsea. Sembra un po' ingiusto questo nei confronti di Pirlo, che invece a mio parere è stato uno dei... chiaramente non è più il giocatore mostruoso che era 3-4 stagioni fa, perché gli anni passano per tutti, anche per Andrea Pirlo, che poi in quel centrocampo, dagli equilibri così fragili e in costante sofferenza numerica, quantomeno per scelta precisa, tattica di Leonardo... insomma, mi sembra che abbia fatto tanti straordinari il povero Pirlo, non è più il giocatore brillantissimo che era prima. Ieri l'espulsione è stata un po' troppo severa da parte di Morganti, ripeto. È anche vero che, insomma, la mira sulle punizioni sembra un po' svanita, visto che Pirlo quest'anno ha segnato un solo gol, però vi ricordate anche qual era, soprattutto i tifosi del Milan si ricorderanno qual era, quello a Madrid. Dunque mi sembra un po' ingiuste e un po' severe le critiche a Pirlo, come severa è stata, ripeto, l'espulsione di ieri sera. Sentiamo Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto volevo fare dei complimenti, perché devo dire veramente sereno, gentile e competente. Davvero, grazie. Davvero. Comunque volevo parlare della Juventus, volevo dire che io dal tifoso juventino sono già rassegnato, perché quest'anno diciamo che non è anno, ed è qui a farmi un dramma, cioè dire tutti i tifosi a stare tranquilli, perché comunque questa non è una nostra annata, quindi cerchiamo di limitare i danni, non fare troppe tragedie, perché se a mio avviso non serve a nulla. Sì. E poi volevo sapere il suo giudizio sul fatto che si era comprato Diego, per me fortissimo, però non ci sono gli attaccanti giusti per elevare quelle che sono le sue caratteristiche, perché se vogliamo andare per 10 entrare, noi ci stanno gente che hanno fatto, non so che cosa serve dire, questo volevo sapere. Sì, no, ma lei, non solo Diego, mi sembra che la Juventus sia una squadra costruita molto male come impianto complessivo, insomma. Chiaro che non bisogna fare drammi, perché parliamo di calcio, i drammi sono altri. L'unica cosa è che è stato buttata via una stagione, nella ricostruzione sono state buttate via almeno un paio, secondo me, sono stati buttati via un sacco di soldi per prendere giocatori magari anche giusti, ma al posto sbagliato, insomma, per quanto riguarda la Juventus. La corsa a quarto posto rimane comunque molto aperta, è in pieno divenire, una specie di spareggio sarà proprio quello di questa sera, Napoli-Juventus, bene il Palermo, anche se ieri sera si è fatto rimontare dal Genoa e da Valeri, che ha concesso quel po' di recupero, rigore a tempo scaduto, insomma sono tutti episodi, però il Palermo è quello che ha la faccia migliore secondo me nella corsa al quarto posto. Adesso è il momento di ricevere ospiti. Alessandra Bocci, firma prestigiosa Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti, a proposito di Milan, fare miracoli consuma, io credo, muscoli, tendini, anche i nervi, specie a una certa età, probabilmente. Sì, io non condivido certe critiche a Leonardo, che secondo me ha fatto un buon lavoro finché ha potuto. Certamente. Ha cercato di ringiovanire la squadra senza poterla ringiovanire, perché quelli che aveva a disposizione erano i soliti, insomma è stato comprato solo Unterer, che secondo me è un buon attaccante, ma non era probabilmente l'attaccante che Milan cercava, e quindi insomma anche lui, io credo che pur non essendo un top player come direbbe Gagliani, Unterer potrebbe aver fatto più di quello che ha fatto finora, ma spesso ci sono anche delle variabili, così si possono creare delle intese, dei feeling fra le squadre, i giocatori nuovi, i sistemi di gioco che non sempre funzionano allo stesso modo. Comunque Leonardo ha fatto delle buone cose, ricordo che probabilmente nessun tifoso del Milan all'inizio della stagione avrebbe immaginato questa squadra, sebbene forse virtualmente in lotta per lo scudetto, quindi insomma io credo che siano andati ben al di là delle loro reali possibilità. Guarda Alessandra, secondo me Leonardo ha fatto anche più di un buon lavoro, ha fatto una specie di miracolo, dottor Frankenstein, è riuscito a ridare vita a una creatura che di vita non ne aveva più tantissima, esatto, a rimotivare i giocatori, a inventarsi anche delle soluzioni estreme, delle soluzioni al limite della comprensibilità tattica, com'è in realtà questo Milan. Però l'impressione è che comunque la corsa sia finita, lo dice il solo punto preso nelle ultime due partite, che erano quelle in cui dovevi accelerare per provare a scavalcare l'Inter. Lo dicono, come tu scrivi oggi, due gol segnati nelle ultime cinque partite, sì, sono tutti segnali, no? Io credo che sia preso, ti interrompo, anche un problema di infortuni, perché io credo che Nesta sia stata veramente una colonna della squadra dall'inizio della stagione, oltre che per il suo valore tecnico, per una indiscutibile e anche cresciutissima rispetto agli anni precedenti personalità. Sì. Questa è una squadra che secondo me ha manifestato, espresso in alcune partite fondamentali magari non una mancanza, ma una diminuzione della personalità rispetto a quello che eravamo abituati a vedere a Milan. Perciò Nesta è stato importante e lo è adesso che non è più, è importante e negativo. Lo stesso dicasi per David Beckham, che quando è arrivato l'anno scorso veniva trattato un po' come un modello che veniva qua a svernare, e sia l'anno scorso che quest'anno, per quel poco che ha potuto fare, ha dimostrato invece di essere probabilmente non più in grado di fare il titolare. Però un cambio importante, un giocatore intelligente che avrebbe potuto dare una mano al Milan, e purtroppo il Milan ha dovuto fare a meno anche di lui. Sì, certo, leadership è la parola chiave, e la l'hanno data, la davano al Milan sia Nesta che per tempo molto più ridotto lo stesso David Beckham. E tra i tanti miracoli, Alessandra, c'è una difesa del Milan che non ricordo se sono 17 o 19 le partite che Nesta e Thiago Silva hanno giocato insieme nella difesa, al centro della difesa del Milan. Sono comunque poche rispetto a alle 30 giocate in campionato, eppure il Milan ha preso 28 gol, che non sono certo tantissimi. Sì, sì, è vero, è vero. Poi c'è anche un altro giocatore del quale magari si parla meno, ma che poteva essere fondamentale, è Daniele Bonera. Anche lui ha avuto tanti guai piccoli legati al grosso guaio che si trascinava dietro dall'anno scorso, e adesso dovrebbe essere pronto a rientrare, ma io credo che a questo punto sia molto difficile. Poi adesso giocare una partita senza Pirlo e Ronaldinho, anche Ronaldinho quest'anno è stato, insomma, il suo rendimento è stato fenomenale se lo paragoniamo a quello dell'anno scorso. E a questo punto, per tutte queste situazioni che si sono create, io credo che il Milan dovrà realisticamente pensare eventualmente di consolidare il secondo posto, che credo sia un'impresa alla sua portata, perché io sinceramente non credo che la Roma possa battere l'Inter, possa gettarsi in questa cavalcata scudetto. Io credo che l'Inter abbia fatto un po', non dico un po' giocato al gatto col topo, però come vedi tutte le volte che noi giornalisti abbiamo nominato un anti-Inter, sì, il fenomeno sì, si è dissolto in poco tempo. L'Inter ha una solidità di testa anche che non ha mai avuto negli ultimi anni, e ormai può giocare spesso sul velluto, quindi è stata rimontata in un momento particolare della stagione, ma io credo che vincerà anche meritatamente lo scudetto, visto quello che ha fatto vedere in tutto il periodo. Guarda, è la stessa sensazione che ho anch'io, me lo l'ho sempre detto. L'unica cosa, io insomma, dovessi mettere 2 euro su chi arriva secondo, giocherei la Roma, ma perché sta meglio la Roma. Roma-Inter sarà per Ranieri la partita dell'anno, per Mourinho il muto ormai, una delle tante partite dell'anno. Tra l'altro, come tu dici bene, l'Inter ha ormai una discreta, anzi una grande abitudine a giocare e spesso a vincere gare di questo tipo. Esattamente, in effetti appunto per questo dico il Milan deve concentrarsi sul secondo posto, perché è facile che la Roma glielo porti via, perché sembrava anche la Roma destinata un po' a rallentare, perché normalmente una squadra che infila una serie di risultati positivi così lunga e così importante fa sempre un passo falso. La Roma ha fatto qualche mezzo passo falso, ha fatto un mezzo passo falso a Livorno, però certo, insomma complessivamente sta meglio, probabilmente ha più entusiasmo perché è in una situazione particolare, e anche la Roma per come era iniziata la stagione probabilmente non avrebbe mai pensato di trovarsi così in alto. Ma certo, ma non hai anche tu l'impressione che la Roma stia un po' meglio rispetto alla partita con il Milan? Ha fatto qualche partita un po' difficile nonostante i risultati sono sempre stati positivi. Ricordo la partita vinta 1-0 in casa con il Catania, ricordo una serie di gare poco brillanti della Roma fino a quella col Milan, poi c'è stato il 3-3 di Livorno, è stata una partita stranissima. Adesso anche a guardarla ieri sera mi sembra che la Roma abbia ricominciato a correre. Sì, soprattutto ha ricominciato a correre, e soprattutto ha la capacità che il Milan non ha, storicamente secondo me non ha, e a maggior ragione non ha avuto negli ultimi tempi, di vincere anche le partite nelle quali stenta. Cioè sì, è abbastanza difficile che il Milan vinca una partita se non gioca bene, perlomeno per un tempo. Molto spesso invece le squadre, e questo è un punto di forza, riescono anche a giocare così, andare in difficoltà, a non essere diciamo in palla da portare a casa il risultato. Questo al Milan di Leonardo non è riuscito, però non riusciva nemmeno al Milan di Ancelotti. Sì, ecco, sì, quindi benissimo. Sinceramente io seguo il Milan ormai da tanti anni e non ricordo negli ultimi tempi di aver visto tante volte il Milan vincere le partite che ha stentato, certo, ha avuto difficoltà. È capitato, ha avuto tantissimi colpi di fortuna, ma il colpo di fortuna è una cosa, e la capacità di il cinismo vincere è un'altra. Esattamente, forse è questo che manca a loro. Assolutamente, questo di DNA quasi, di cromosomi di questa squadra. Ti chiedo ancora questo, Alessandra, prima di salutarti. Abbastanza indecifrabile, dicevo prima, la corsa al quarto posto, che passa comunque per la stazione di Napoli questa sera, Napoli-Juventus. Tra le tante, secondo me il Palermo è quella che ha la faccia migliore, se mantiene questo tipo di andamento, di andatura, di approccio alle partite, di solidità tattica e di consistenza fisica peraltro. Sì, io però io invece sono cinica a differenza del Milan, sì, e dico sempre che alla fine in fondo arrivano più o meno le solite Juventus in Italia, sì, succede in Italia, succede in Inghilterra, succede in Spagna, succede ovunque. È chiaro che c'è sempre la bella sorpresa. L'anno scorso ricordiamoci che il Genoa per metà, magari tre quarti della stagione, direi metà stagione, è stata una squadra che faceva credere al miracolo. Quest'anno ha fatto cose bellissime, il Milan e il Cagliari nei primi mesi, la Sampdoria a tratti adesso ha ripreso ad andare, certamente il Palermo è una squadra che gioca bene, che corre ma che ha anche qualità, però alla fine c'è qualcosa negli uomini fondamentali di una grande squadra che li sorregge nei momenti difficili, diciamo. Così è stato così l'anno scorso con il Milan, quando poi è riuscito a rimettersi in carreggiata, arrivare in zona Champions, e io credo che possa essere così anche con la Juventus. La Juventus negli ultimi tempi aveva perduto un uomo secondo me fondamentale, Chiellini, che è stato fuori per un po' per infortunio, e io penso che anche quello abbia influito, anche perché Giorgio è importante per la Juventus non solo come difensore ma anche lui a livello di leadership, sì, certo, di personalità, di cattiveria agonistica, perciò io credo che se Del Piero imbrocca qualche partita, se la Juventus ritrova un minimo della sua anima, diciamo, io credo che alla fine questo possa fare un po' la differenza, aiutare un po', però in effetti non c'è niente da dire, il Palermo gioca meglio della Juventus finisse oggi il campionato, il suo quarto posto sarebbe, certo, assolutamente meritato, e non ci piove su questo. Alessandra, grazie. Grazie davvero. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie ad Alessandra Bocci, Gazzetta dello Sport. Ragazzi, però decidetevi con i messaggi, non se ne può più con la propaganda di regime pro Milan, mi scrive un ascoltatore. Fino a ieri ero pronto per Inter Channel o ero critico oltre ogni ragionevole confine nei confronti del Milan. Insomma, decidetevi cosa volete che si dica di questo Milan. Calcio è bello perché è vario anche nelle sue valutazioni. C'è Attilio da Bergamo che scrive: scusate, ma Seedorf a destra vi sembra una grande idea? Leonardo non mi pare in grado di allenare il Milan. Poi invece c'è Gino da Milano che scrive: senza campagna acquisti Leonardo si potrebbe quasi paragonare al suo omonimo più illustre, il Genio addirittura. Mi sembra che la verità stia un po' nel mezzo. Leonardo ha fatto un grande lavoro, ha commesso degli errori, e Seedorf a destra si trova adesso ad avere a che fare con un organico ridotto all'osso causa usura fisica e nervosa. Poi Davide da Pistoia: non mi aspettavo anche da lei l'ingiustificata aria di sospetto sulla partita di Genova. Non c'è nessuna aria di sospetto sulla partita di Genova, semplicemente Pairo è stato onestamente sfortunato, perché in un momento così importante per il suo campionato, con la partita in pugno, essere acciuffato al 97esimo su rigore. Diciamo che il pareggio genuano è stato quantomeno rocambolesco, non trovate? Fausto da Como, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo semplicemente dire che non sono né milanista né interista, però Leonardo secondo me è un grande allenatore, perché una grande persona, sì, e sta facendo molto bene con quello che ha in mano. Primo discorso, secondo me modo di vedere. Sì, sì, è una persona molto intelligente, sta gestendo questa squadra e questa stagione con grande intelligenza, anche se con probabilmente qualche errore, no, dal punto di vista. Ma io non penso, perché secondo me il Milan è una squadra di cadaveri, perché ha tirato via 3 o 4 giocatori. Tanto per essere chiari, tanto per essere molto semplici e sinceri, no? Perché adesso ha fatto tantissimo, ha vinto tanto, ma è una squadra quest'anno di cadaveri, no? Una squadra fortissima è l'Inter, e non sono neanche interista. Mi voglio ricollegare a quello che ha detto prima la donna della Gazzetta, che l'Inter è come se avesse detto andrà a Roma a fare la passeggiata. Non credo, perché la Roma è una di quelle squadre che sono 5 anni che gioca a calcio meglio di tutti in Italia. C'è nessuna squadra, e ha speso un centesimo di quello che può aver speso l'Inter, no? Poi sicuramente andrà a Roma, magari potrà anche vincere, ma non è così lampante, no? Perché il calcio è una cosa diversa. Io vedo nella Roma dell'entusiasmo, nell'Inter vedo un sacco di quattrini, ecco, volevo solo dire questo. Sì, però mi sembra riduttivo, è anche un po' banale dire questo, no? La Roma certamente ha un organico che secondo me è superiore dal punto di vista tecnico a quello del Milan. È anche vero che la Roma ha non pochi problemi economici, tanto che molti dicono ce li ha, però ha anche diversi debiti da pagare, forse avrebbe dovuto cedere altri suoi pezzi pregiati oltre ad Aquilani, come sapete, la scorsa estate. Però questi sono discorsi marginali. Non è vero che la Roma è solo bel calcio, è solo è solo fantasia anche dal punto di vista della costruzione della squadra. Non è vero che l'Inter sono solo quattrini. L'Inter è una squadra molto ben organizzata che ha fatto una signora campagna acquisti, anche senza spenderne moltissimi di quattrini, come ben sapete, Pandev, lo stesso Snyder, che è costato quanto che so Untelar, o quanto verrà a costare Candreva alla Juventus, grosso modo. Insomma, l'Inter ha fatto una signora campagna acquisti, è una squadra molto ben allenata, molto organizzata, con una grande abitudine a giocare queste partite, ed è anche una squadra che tutto sommato quest'anno ha offerto, anche al di là della partita di Londra, delle dimostrazioni di bel calcio. Agostino, Palermo, buonasera. Sì, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Beh, poi ci spiega anche comunque Quaresma e Mancini quanto sono costati e che fine hanno fatto. Io non dico, giusto per parlare dell'Inter, degli investimenti. Sì, ma non solo euro circa, dico, non solo Quaresma e Mancini, non anche solo altri. Anche molti altri. Però diciamo se parliamo dell'attualità, insomma, se andiamo indietro, anche Vampeta, voglio dire, ce ne sono tanti, ne hanno sbagliato una montagna. Però l'Inter sarebbe riduttivo dire che l'Inter è solo quattrini. L'ultima campagna acquistica che ha fatto è stata perfetta, è una grande squadra. Sicuramente. Volevo dire, spendere chiaramente qualche parola sul Palermo, che credo sia veramente la grande sorpresa di quest'anno, e credo che abbia in questa sua evoluzione grandiosa degli ultimi tempi un nome soltanto, quello di Delio Rossi, che è riuscito a fare un miracolo tattico, a rivitalizzare giocatori che erano veramente arrivati, vedi Nocerino, vedi lo stesso Goyan in cui non credeva nessuno. E tanti altri. Io sono veramente in netto disaccordo con quello che diceva Alessandra Bocci della Seto Sports. Credo che la Juve, se gioca come gioca adesso, potrà arrivare al massimo forse in Europa League. Le aspirazioni al quarto posto sono veramente lontane. Sì. Per quanto riguarda invece le polemiche sul Genoa-Palermo, io credo che se avesse giocato al posto del Palermo un'altra grande squadra, io credo che tutto questo recupero non sarebbe stato dato, questo giusto per inciso. Sì. È anche vero che a recupero concesso c'è stato un infortunio serio che ha fatto perdere diverso tempo. Poi non lo so se fosse stata una grande squadra, sono discorsi che non hanno una controprova. Limitiamoci alle considerazioni precedenti, e cioè che il Palermo è una signora squadra. A proposito di campagna acquisti, non solo giocatori Nocerino e quelli che lei citava, che sembravano finiti da altre parti, ma il Palermo, insomma, sta pescando con discreti quattrini a disposizione anche gente come Pastore, come Kier. Prima un ascoltatore aveva scritto che l'organico del Milan, adesso vediamo se riesco a recuperare il messaggio, non credo perché ce ne sono davvero tantissimi. Eccolo qui, scusate, ma credo che il roster del Milan valga al Palermo e sarà già un miracolo se arriva a terzo. Lo scriveva Silvia. Tra i due roster, tra le due rose, io mi prendo quella del Palermo, se non altro per questioni anagrafiche di futuribilità e di talento e di fame e di vittorie. Poi sfondo una porta aperta all'ascoltatore parlando bene degli Orossi. Da molto tempo, moltissimo tempo, dico che è uno dei migliori allenatori italiani. Basta andare a guardare i riscontri, anche i confronti diretti, se vogliamo, l'ultimo più recente, Milan-Palermo, con il Palermo che fa saltare il banco di San Siro in un momento in cui il Milan viaggiava forte. Salvatore Catania, buongiorno. Buongiorno, io la porto giù in classifica. Ma volentieri. Allora le dico subito, dire, molto indicativa. Dopo Palermo, dottore, Salvatore, Palermo. Molto indicativa in chiave salvezza la vittoria della Lazio in una partita vera ieri sera, perché quella di Cagliari secondo me non lo è stata. Lazio che potrebbe anche fare risultato a Milano a questo punto, tutto considerato. Chi sale? L'Atalanta, chi scende? Il Chievo. Catania mi sembra francamente in stato di grazia e quasi fuori dalle sabbie mobili del tutto. Assolutamente sì, ma questo stato di grazia non si rispecchia nei mass media, che in vero non dico ci snobbano, ma parlano poco di questa squadra che invece a mio parere ha fatto un cambiamento notevole con l'avvento di Mihajlovic. E appunto una domanda per lei, mi interessava sapere cosa pensava lei circa questo cambiamento radicale che in alcuni giocatori del Catania non si comprende come è stato possibile questa mutazione, diciamo, da parte di gente come Martinez, Izco, che a Catania conosciamo da diversi anni. Sì, e no, che mai Salvatore, veramente... però non dimentichiamo che anche l'anno scorso il Catania fece un grande campionato. Sì, però a questi livelli, parlo delle, diciamo, delle ultime 8-9 partite, non si erano mai visti. Ecco, questo quanto può essere, a suo parere, merito di Mihajlovic, oppure di una maturazione o di una consapevolezza che assume la gente, insomma, e che porta a perché è indubbio che il Catania di queste ultime settimane, sì, è il Catania che ha vinto benissimo e senza clamoroso al Cibali, dottore. Sì, sì, no, ma Catania è una squadra che ha alcuni pregi, è una squadra piuttosto tecnica, con molti giocatori sudamericani, con molti argentini. È una squadra che si conosce bene perché è un gruppo che sta insieme da molto tempo. È una squadra che indubbiamente è cresciuta anche per questi motivi. È una squadra che, comunque, ripeto, adesso per le recenti vittorie e l'Inter e la Fiorentina ieri, per una serie di straordinari risultati che hanno portato il Catania praticamente in salvo o quasi. Non si ricorda, si tende a non ricordare, sulla scorta di questi risultati ancora lì scintillanti, quanto fece il Catania dell'anno scorso con Zenga. A un certo punto viaggiava nei quartieri alti della classifica a campionato già inoltrato, quindi è una squadra che ha certamente delle buone qualità, e per quanto riguarda Mihajlovic, che ha avuto fin qui fortuna abbastanza alterne come allenatore, io credo che valga il discorso che Alessandra Bocci faceva prima a proposito di Nesta e di Beckham. Comunque è un carismatico, uno di grande personalità, e credo che a questi giocatori abbia fatto bene soprattutto da questo punto di vista. Torniamo con Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno, io vorrei fare una considerazione sulla classifica, poi indipendentemente dallo stato di salute delle squadre coinvolte. Sì. Ma se la Roma vince l'anticipo sabato sera e se il Milan vincesse il posticipo con la Lazio, sì, che classifica ci sarebbe domenica sera? Non ho capito cosa ha detto, perché era un po' disturbata la comunicazione. Se la Roma vincesse con l'Inter. Con l'Inter. E il Milan vincesse con la Lazio. Sì. Domenica sera che classifica ci sarebbe? Quella che avevamo ieri, grosso modo quella che avevamo ieri, prima delle partite. Sarebbe tre squadre in un punto, se non ricordo male, giusto? Sì. Sarebbe a 7 giornate alla fine, non sarebbe divertente? Sì, certo, sarebbe divertente, un po' troppi condizionali in tutto questo, però sarebbe senz'altro divertente. Detto questo, l'Inter mi sembra ancora in controllo. Prima voglio vedere la Roma che batte l'Inter sabato alle 18. Poi voglio vedere il Milan che batte la Lazio, che mi sembra sia in ripresa, lo dice la partita di ieri sera, mentre il Milan ha diversi problemi. È chiaro che, insomma, quello che ci auguriamo tutti è uno sprint finale vero. La mia sensazione è che il Milan, ma forse in fondo nemmeno la Roma, siano completamente attrezzate per attaccare sul serio l'Inter. Prima Alessandra Bocci parlava di gatto con il topo. Infatti l'Inter ha vissuto un momento abbastanza strano della sua stagione, complici diverse cose, e si è trovata a fare pochissimi punti, in una serie di partite, tutti pareggi, ripeto, molto diversi uno dall'altro, tutte storie molto diverse una dall'altra. Moratti l'altro giorno ha sottolineato come l'unica gara veramente deludente l'Inter l'abbia giocata in casa con il Genoa, e concordo abbastanza su questa analisi di Moratti. In qualunque a dimostrazione del fatto che la concorrenza non è credibile fino in fondo a livello di scudetto, probabilmente sta il fatto che in qualunque altro campionato con una concorrenza più seria, una squadra che fa 8 punti in 7 partite viene mangiata dall'Arsenal, dal Chelsea, dal Barcellona, dal Real Madrid, mettete le parti che volete in questo caso. Insomma, Milan e Roma non sono riuscite fin qui a piazzare seriamente il colpo di reni. Il Milan ha avuto la pallina buona sulla racchetta con il Napoli, sapete com'è finita. La Roma ce l'ha adesso, anche se, ripeto, poteva arrivare a questo confronto diretto con un punto in meno dell'Inter. Basti pensare all'incredibile 3-3 di Livorno, basti pensare alla stessa gara interna piuttosto opaca con il Milan che ha preceduto la partita di Livorno. Certo, la Roma arriva a questa partita in ottime condizioni, probabilmente con Totti a fare il nome tutelare, credo all'inizio in panchina, e sarà una grande partita questa per il nostro campionato. Sarà un weekend, e qui voglio fare una digressione anche di grande interesse fin dalla mattina di domenica, perché c'è una corsa in Australia che tutti stanno stiamo aspettando con discreta trepidazione. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Vorrei, prima di chiudere con gli ascoltatori, parlare un po' di macchine, perché oggi leggevo sulla stampa che insomma c'è già chi vorrebbe cambiare il regolamento appena nato. Ti dirò, questo è un problema che si porrà senza dubbio, probabilmente lo rimanderanno alla fine dell'anno, perché con le modifiche che hanno fatto non hanno risolto tutto sommato il problema di accentuare le possibilità di sorpasso, anzi si sono aggravate, perché aumentando il sistema di effetto suolo con il doppio diffusore, con ulteriori modifiche eccetera, si è creata dietro la macchina una situazione di turbolenza tale per cui sorpassare diventa ancora più difficile, perché nel momento in cui ci si avvicina alla macchina da davanti e perde aderenza all'anteriore, quindi è una situazione tecnica che andrebbe risolta, ma non credo che lo facciano nel corso della stagione. Certo. Però non tocchiamo più questo argomento, perché tu sai che io sostengo che questa è una formula purtroppo che è un carrozzone pubblicitario e tale interessa del resto a Ecclestone, lo vediamo cosa sono le questioni dei premi eccetera, perché dal punto di vista tecnico tutta questa aerodinamica non ha nessun senso. Se aggiungiamo la battuta di Todd, che mi è piaciuta moltissimo anche se la dice tardivamente perché lo candiderò a Ferrari, non l'ha mai detta, non è possibile fare automobili che consumano 80 litri per fare 100 chilometri. Mettiamo da parte tutto questo, la stagione è sicuramente una stagione molto interessante. Sì, anche se campanello d'allarme l'ha acceso il campionato del Bahrain. Oggi Alonso fa una dichiarazione fantastica, perché dice: per me il Bahrain non è stato noioso per niente, a dire la verità è stata una corsa molto normale, non ho visto nessuna differenza. Bravo, l'ha vinto, quindi ce ne fossero 100 di gran premi così per Fernando Alonso. Però il primo campanello d'allarme che ha portato qualche furbo a parlare di modifiche ad un regolamento appena nato è stata una gara totalmente incolore, no? Dal sì, punto di vista spettacolare. Lo stesso Alonso appena finita ha detto: si è risolto tutto tra la qualifica e la partenza. Sì. Ma d'altra parte, come dico, il problema è lampante, solo non lo vogliono vedere. Se non si riduce questa aerodinamica rimarrà sempre una difficoltà di sorpasso. Ho letto addirittura giorni fa una follia come quella di la casa di pneumatici che faccia delle gomme che non si sa quanto durano, in modo che qualcuno si ferma prima e qualcuno si ferma dopo. È l'ennesima riprova che il concetto del fare la corsa, che è quello che conta, non ha importanza. Importante è creare uno spettacolo succedaneo falso come quello appunto della fermata ai box e così via. Però diciamo che la fortuna della Formula 1 è che quest'anno ci sono molti protagonisti e molte macchine che nel giro di un paio di gran premi dovrebbero arrivare più o meno allo stesso livello. Quindi con protagonisti di questo valore si può anche pensare che ci sia qualche occasione di maggior duello. Dico, si può sperare. Io ritengo che per il grande pubblico comunque sia determinante che la Ferrari continui su questo passo, cioè che sia competitiva o addirittura che domini il campionato. L'importante è che ci sia anche qualche avversario che le sia a ridosso, perché sennò sarebbe la monotonia che abbiamo vissuto anche negli anni di Schumacher. Certo. Già che parliamo di Schumacher, è chiaro che adesso è molto atteso, perché tutti praticamente sono rimasti delusi della sua prestazione, perché hanno detto: ma come Rosberg, che tutto sommato sì, si dice che è un grandissimo pilota, però non ha mai fatto cose stranissime quando era la Williams, adesso improvvisamente sia in prova, sia in inverno, sia adesso lo surclassa. Ecco, questo è un problema. Poi bisognerà vedere se Button riesce a rimettersi in pista con davanti Hamilton e dimostrare che è un campione del mondo, non solo per le capacità della macchina, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso la Brown ha vinto il campionato perché c'era stata la storia del doppio diffusore. Certo. Quest'anno ce l'hanno tutti, e tra l'altro proprio Brown ha detto: andiamo avanti su questa strada e vedete che confusione succederà. Quindi anche i tecnici, i più qualificati, dicono che il problema è quello dell'aerodinamica, ma nessuno ha il coraggio di affrontarlo. D'altra parte, naturalmente, importa che il circo vada avanti. Basta leggere tutte le dichiarazioni di Ecclestone, sono in quella direzione. A lui ma poi se ne... Lui è per renderlo ancora più charmant. Magari può essere lui l'autore della gag delle gomme a sorpresa, no? Perché poi ha detto: si è inventato addirittura di recente la possibilità eventuale, naturalmente, ovviamente di tagliare le chicane per tre volte nel corso di un Gran Premio per ciascun pilota. Eccleston è un vulcano da questo punto di vista quando si tratta di monetizzare il suo prodotto. Mario, ci sentiamo nel weekend noi, eh? Ciao, buongiorno a tutti. Appuntamento nel weekend con Mario Poltronieri. La corsa, ve lo ricordo, sarà domenica mattina. Avremo tutto il tempo poi nel pomeriggio sportivo della domenica di parlarne insieme. Dunque adesso chiudiamo qui, non abbiamo più spazio purtroppo per altri ascoltatori. Ci ritroviamo naturalmente domani pomeriggio, pomeriggio nel quale tireremo il fiato con il basket, con palla a spicchi, in attesa di tornare in apnea per il weekend calcisticamente più interessante dell'anno sul fronte interno. Sabato vivremo da vicino la vigilia, l'immediata vigilia di Roma-Inter, che si gioca, ve lo ricordo, alle 18, cioè subito dopo la conclusione del nostro programma, guarda caso. Ci fermiamo qui, grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia.